Benvenuto a questa puntata di Autoru e pillole dalla zona fucsia verso il 25 novembre a tema salute. Ascolterete dei testi da Teoria della donna malata, tradotto da Les Bicis, Cure ribelli, Nelly Bly, 10 giorni in manicomio, Caroline Criado Perez, Invisibili, Complain and Disorder, The Sexual Politics of Sickness e Liberi di decidere sui nostri corpi dal piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e di genere di non una di meno. Ad accompagnare i testi ci sarà un po' di musica e avremo Mia con Bring the Noise, Sara Ebe, Esa Mierda, Amparo Ocha, Mujer, Kenny Arcana con Fille du Vent e Janelle Monáe, Turntables. All'inizio di ogni testo verrà comunque ripetuto il titolo e l'autrice o l'autore. Buon ascolto. Teoria della donna malata di Johanna Edva, tradotto dalle Beach. Se consideriamo la definizione di politica di Hannah Arendt, che è ancora una delle definizioni dominanti nel discorso mainstream, come qualsiasi azione che ha luogo in pubblico, dobbiamo confrontarci con le implicazioni di ciò che essa esclude. Se essere presenti in pubblico è la condizione sine qua non perché vi sia politica, allora intere masse di popolazione possono essere considerate apolitiche, per il semplice fatto che non sono fisicamente in grado di portare i loro corpi nelle strade. Ci sono due falle in questo ragionamento, però. La prima è il suo fondarsi su un'idea di pubblico che richiede un privato, un binarismo tra spazio visibile e invisibile. Ciò vuol dire che qualsiasi cosa accada in privato non è politica. Quindi puoi picchiare tua moglie in privato, per esempio, e questo non ha importanza. Puoi mandare email contenenti insulti razzisti, ma poiché non erano destinate al pubblico, in qualche modo non sei razzista. Arendt si preoccupava del fatto che se tutto può essere considerato politico, allora nulla lo è veramente. E per questo ha diviso lo spazio in politico e non politico. Ma mossa da questa preoccupazione, ha scelto di sacrificare interi gruppi di persone, di continuare a relegarli nell'invisibilità e nell'irrilevanza politica. Ha scelto di tenerli fuori dalla sfera pubblica. C'è anche un altro problema. Come ha notato Judith Butler in una sua conferenza del 2015 su vulnerabilità e resistenza, Arendt ha omesso di affrontare la questione di chi ha il permesso di entrare nello spazio pubblico, di chi prende le decisioni nel pubblico o, più in particolare, di chi prende le decisioni su chi entra. Butler dice che c'è sempre un dato vero nelle manifestazioni pubbliche. La polizia è già lì, oppure sta per arrivare. Questa osservazione risuona con una potenza terrificante se consideriamo il contesto di Black Lives Matter. L'inevitabilità della violenza in una manifestazione, soprattutto una manifestazione nata per sottolineare l'importanza di corpi che sono stati lasciati con violenza, senza cure, garantisce che un certo numero di persone non verrà, perché non è nelle condizioni di farlo. Se a ciò aggiungiamo malattie e disabilità fisiche e mentali che tengono le persone a letto e a casa, dobbiamo fare i conti con il fatto che molte persone per le quali sono pensate queste proteste non sono in grado di parteciparvi, il che vuol dire che non sono in grado di essere visibili come attiviste politiche. La più grande protesta contro il capitalismo consiste nel prendersi cura dell'altro e nel prendersi cura di se stesse. Assumere la pratica, storicamente femminilizzata e quindi invisibile, del curare, del nutrire, del prendersi cura. Prendere sul serio la nostra reciproca vulnerabilità, fragilità e precarietà e sostenerla, rispettarla, attribuirle potere. Proteggersi a vicenda, mettere in atto e praticare la comunità. Una parentela radicale, una socialità interdipendente, una politica della cura. Perché una volta che siamo malate, costrette a letto, a scambiarci esperienze di terapia e a darci conforto reciproco, a formare gruppi di sostegno, facendoci portavoce l'un l'altra dei racconti dei nostri traumi, dando massima priorità alle cure e all'amore nei confronti dei nostri corpi malati, doloranti, costosi, sensibili e fantastici, e non rimane nessuno che vada a lavorare, forse, allora, finalmente, il capitalismo arriverà stridendo alla tanto necessaria, tanto attesa, tanto fottutamente meravigliosa. Fine. Thank you. I'm so tangy, people call me my tangy. There's a word, bitches, I'ma keep it banging. Truth is like a rotten tooth, you gotta spit it out. Let the bottom two, let my wisdom work it out. Big on the underground, can't knock me down. Wicked leaves, bitches, bad bite up the man. I sleep on my talent and I stand by it too. I can say lots with the little words if you like. Them had them, yeah, me, the madam, y'all. Introduce you to the dooms and dooms. Come let me go, do you like my perfume? Made it at home with some gasoline and shrooms. Oil and water are two extremes. We like fucking carpets, you like fucking booms. Why is your tattoo smuggling looking things? We yanks, cause it's not me and you, it's the fucking banks. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. If it's like a rotten tooth, you gotta spit it out. Put the button to let my wisdom work it out. The world is out, sending your soldier pals. The words I announce, hope you heard them like cows. I'm a Kenny Body, Roger, Charlie, Aaron Rich. Bitch, my swag, bitches can't touch this. So click, click, click, please get off my dick. Just cause I know I don't make me thick. I'm overweight, heavyweight, be my slick rick. If you need the cheese, then my shit's got stick. We got bug, spray, bucket, stick. We got tons of the fun stuff, tons and tons of it. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Da cure ribelli, storie di cura e sanità alternative. Pantere nere. Tra gli anni 60 e 70, parte centrale del lavoro delle Pantere Nere per i diritti della comunità nera è stata l'organizzazione di programmi di mutuo supporto quali il Free Breakfast for School Children Program, che arriva a servire una colazione gratuita per oltre 20.000 bambini in condizione di malnutrizione in oltre 60 comunità nere degli Stati Uniti. Altri progetti comprendono servizi di disintossicazione da droghe e alcol, servizi di accompagnamento per anziani, programmi di educazione alla salute e infine un servizio di ambulanza. Negli anni 70 i volontari delle Pantere Nere arrivarono a gestire 13 diverse cliniche. In questo contesto matura un'esperienza sufficiente per permettere alle cliniche di intervenire autorevolmente sulle politiche della salute e sulla ricerca medica dell'epoca. Nelle cliniche il personale medico affiliato alle Pantere Nere porta avanti uno screening clinico di massa che contribuisce significativamente allo studio dell'anemia falciforme, malattia genetica che colpisce in particolare le persone di discendenza africana. Inoltre, i medici si oppongono a programmi pseudoscientifici e discriminatori su base razzista. ACT UP. ACT UP è forse l'esempio più conosciuto di organizzazione internazionale che è riuscita a impattare le legislazioni, la ricerca e gli standard di trattamento medico dell'HIV e AIDS, a partire dall'auto-organizzazione delle persone colpite dal virus e dalla comunità circostante.

tratto da 10 giorni in manicomio di Nelly Bly. Ciò che mi deprimeva oltremodo in quelle lunghe giornate era la costrizione a sedere per ore sulle panche. Ogni qualvolta qualcuna provava ad alzarsi per sgranchirsi le gambe o anche solo a cambiare posizione, subito veniva redarguita. Lo stesso accadeva quando ci sentivano conversare. Silenzio assoluto, a questo eravamo tenute. Se si eccettua la tortura, quale altro trattamento potrebbe trascinare chiunque nella più assoluta follia? Tanto più che si trattava in questo caso di donne problematiche, inviate lì per ricevere cure adeguate. Mi piacerebbe dire a quegli esperti psicologi che successivamente hanno condannato il mio operato come infiltrata: prendete alcune donne perfettamente sane e in salute, rinchiudetele in una stanza dove saranno costrette a rimanere sedute dalle 6 del mattino alle 8 del pomeriggio, senza mai potersi muovere né parlare, alimentatele con cibo scarso e avariato e costringetele a sottoporsi a bagni gelidi e terapie estremamente dure, senza mai dar loro notizie di ciò che accade nel resto del mondo, e vedrete come ben presto le condurrete alla follia. 2 mesi sono sufficienti a provocare in chiunque un vero e proprio esaurimento fisico e mentale. Ho fin qui descritto il mio primo giorno di ricovero nell'istituto. Ebbene, i restanti 9 non furono molto diversi, tanto che raccontarli uno a uno sarebbe tedioso e ripetitivo. Nel rivelarvi questa storia so bene che sarò sottoposta a critiche e obiezioni da parte di molti di coloro qui citati, ma vi assicuro che mi sono limitata a narrare, in parole semplici e con la massima obiettività, ciò che ho vissuto in quei 10 giorni all'interno del manicomio. La cosa peggiore era senz'altro il vitto. Esso risultava del tutto insipido e, per lo più, rancido. Tanto che solo la fame costringeva quelle povere donne a ingurgitarlo, allo scopo di insaporire carne e zuppa, giacché di sale non si rinveniva traccia, vi versavano aceto o mostarda, rendendole oltremodo disgustose. Di qualsiasi cosa si trattasse, pesce, manzo, carne di montone o patate, il tutto servito freddo, la consistenza o il gusto erano sempre i medesimi. Se solo qualcuno osava rifiutarsi di mangiare, veniva duramente punita, e a peggiorare il nostro stato d'animo, il fatto che nel corso di quelle brevi passeggiate mattutine, capitava sovente che ci ritrovassimo a passare innanzi alle cucine, in cui venivano preparate le pietanze per infermieri e medici, separate dai locali in cui i pasti delle pazienti venivano cucinati. Ebbene, sbirciando attraverso le finestre avevamo visioni di ceste di meloni, uva e frutta di ogni genere, del tutto assenti nella nostra dieta, di altre contenenti soffice pane bianco e piatti su cui risaltavano ottimi tagli di manzo, ben diversi dai brandelli avariati che servivano a noi. Il profumo che scaturiva da quella stanza accresceva il senso di fame che noi tutte costantemente percepivamo. Invano protestai con i medici a proposito di questo trattamento differenziato, e quando me ne andai, nulla di tutto ciò era cambiato. Era deprimente osservare come tutte le pazienti più deboli, a causa della malnutrizione, deperissero sempre di più. Più volte scorsi Miss Meyer sforzarsi di mangiare un boccone per poi correre in bagno a rigurgitarlo, incorrendo negli aspri rimproveri dell'infermiera di turno. L'unica risposta ottenuta, se solo tentavamo di lamentarci, era un brusco «chiudi la bocca o te ne pentirai», cui seguiva il medesimo ritornello sulla nostra palese ingratitudine e sul fatto che coloro che vivono della carità altrui non dovrebbero lamentarsi per quanto viene elargito loro. Ancestrales, oh. tratto da Invisibili di Caroline Criado Perez. Ogni anno 8.000 persone muoiono di tumori correlati al lavoro. Sebbene gran parte della ricerca in questo campo sia stata condotta su uomini, non è affatto certo che siano loro i più colpiti. Negli ultimi 50 anni il mondo industrializzato ha visto un significativo incremento dei casi di cancro al seno, ma poiché la ricerca si disinteressa dei corpi delle donne, delle loro occupazioni e degli ambienti in cui vivono, non abbiamo dati che ci aiutino a capire che cosa si nasconde dietro questo fenomeno. Sappiamo tutto sulle malattie da inalazione di polveri nei minatori, mi dice Rory O'Neill, docente di ricerca ambientale e sul lavoro all'Università di Stirling, ma ancora poco sulle conseguenze dell'esposizione agli agenti fisici o chimici con cui molte lavoratrici entrano in contatto. Il problema è almeno in parte di natura storica. Per le patologie come il cancro, che hanno tempi di latenza prolungati, possono anche passare decenni prima che il numero dei decessi sia abbastanza elevato da poter tirare le somme. Sono generazioni ormai che contiamo i morti negli ambienti lavorativi tipicamente maschili, come l'edilizia e l'estrazione dei minerali. O per essere più precisi, abbiamo contato solo i corpi degli uomini. Quando le vittime erano donne impiegate in quei settori o esposte a sostanze dello stesso tipo, i dati venivano eliminati in quanto fattori di disturbo. E nel frattempo nessuno si occupava dei settori in cui prevaleva la forza di lavoro femminile. Se anche cominciassimo a studiarli oggi, spiega O'Neill, ci vorrebbe almeno una generazione per raccogliere i dati necessari. Non se ne occupa ancora nessuno di quei settori. Continuiamo ad affidarci agli studi sui lavoratori maschi e facciamo finta che vadano bene anche per le donne. E per maschi intendiamo nello specifico individui di razza bianca fra i 25 e i 30 anni che pesano 70 kg. Ci siamo scelti un uomo di riferimento, dotato di superpoteri che gli permettono di rappresentare l'umanità intera. Solo che non è vero. Uomini e donne hanno sistemi immunitari ed endocrini diversi e questo può influire sulle modalità di assorbimento degli agenti chimici. Inoltre le donne hanno un fisico tendenzialmente più minuto degli uomini e la pelle più sottile, fattori che potrebbero abbassare la loro soglia di tolleranza alle tossine, mentre la maggior percentuale di grasso corporeo facilita l'accumulo delle sostanze tossiche. Il risultato è che i livelli di irradiazione nucleare, che si considerano sicuri per l'uomo di riferimento, possono rivelarsi dannosi per le donne. Lo stesso dicasi per una vasta gamma di agenti chimici di uso comune. Eppure, la famosa regola «se va bene per i maschi, va bene per tutti» sembra tuttora valida e a peggiorarne gli effetti contribuiscono anche le tecniche di valutazione del rischio chimico. Tanto per cominciare, ancora oggi, gli agenti chimici vengono analizzati uno a uno e sulla base di una sola esposizione. Ma non è così che si viene a contatto con quel tipo di sostanze, a casa, nei detersivi e nei cosmetici, come al lavoro. Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible. Ici fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu, j'écris mon récit, terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne, je me délivre, éternelle pèlerine, digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes, à l'heure où leur monde s'engloutit. Sanglotant, je suis parti là où le soleil a le sourire, en quête de ce dont juste la mal souvenir. Liberté, mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, trop remplie, mon glacial froid de banquise, être instable, pas tant pis. En vie, tant que l'aventure m'appelle, c'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres. De train en train, je suis parti par la fenêtre pour être libre. J'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion, ou na vie à l'occasion, ma vie un hymne à l'audace. Tous à nos places, jamais la terre est mon pays. Pèlerinage ou périple, être libre ou périr, comme un filet d'eau pure sur mes plaies si brûlantes, connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie. si la routine je suis. Appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis née pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments, l'ouvrant. Je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement, tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens. Comme quoi mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher. Jusqu'au lever du jour où quand la mort viendra me chercher, je partirai aussi libre que quand je suis arrivé. Entre les marées, la vie m'a appris à naviguer d'expérience en expérience comme une lame allumée. Je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes. M'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis née pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent. Appelle-moi, fille du vent. Appelle-moi, fille du vent. Da Complaints and Disorders, The Sexual Politics of Sickness by Barbara Ehrenreich and Deirdre English. Medical treatments at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Dr. F. Ollick, speaking of methods of curing amenorrhea, chronic lack of menstrual periods, commented, "Some authors speak very highly of the good effects of leeches applied directly to the external lips of the genitals a few days before the period is expected. Leeches on the breasts might prove effective too," he observed, "because of the deep sympathy between sexual organs. In some cases, leeches were even applied to the cervix, despite the danger of their occasional loss in the uterus. So far as we know, no doctor ever considered perpetrating similar medical insults to the male organs. Such methods could be dismissed as well intentions, with somewhat prurient experimentation in an age of deep medical ignorance. But there were other treatments that were far more sinister, those aimed at altering female behavior. The least physically destructive of these was based simply on isolation and uninterrupted rest. This was used to treat a host of problems diagnosed as nervous disorders. Passivity was the main prescription, along with warm baths, cool baths, abstinence from animal foods and spices, and indulgence in milk and puddings, cereals, and mild subacid fruits. Women were to have a nurse, not a relative, to care for them, to receive no visitors, and, as Dr. Dierks wrote, all sources of mental excitement should be perversingly guarded against. Charlotte Perkins Gilman was prescribed this kind of treatment by Dr. Vere Mitchell, who advised her to put away all of her pens and books. Gilman later described the experience in a story, The Yellow Wallpaper, in which the heroine, a would-be writer, is ordered by her physician husband to rest. "So I take phosphates and phosphates, whichever it is, and tonics and journeys and air and exercise, and I'm absolutely forbidden to work until I'm well again. Personally, I disagree with their ideas. Personally, I believe that congenial work with excitement and change would do me good. But what is one to do? I did write for a while in spite of them, but it does exhaust me a great deal, having to be so sly about it, or else meet with a heavy opposition." Slowly, Gilman's heroine begins to lose her grip. "It's getting to be a great effort for me to think straight. Just this nervous weakness, I suppose. And finally, she frees herself from her prison into madness, crawling in endless circles about her room, muttering about the wallpaper. But it was the field of gynecological surgery that provided the most brutally direct medical treatments of female personality disorders. And the surgical approach to female psychological problems had what was considered a solid theoretical basis in the theory of the psychology of the ovary. After all, if a woman's entire personality was dominated by her reproductive organs, then gynecological surgery was the most logical approach to any female psychological problem. Beginning in the late 1860s, doctors began to act on this principle. At least one of their treatments probably was effective, surgical removal of the clitoris as a cure for sexual arousal. A medical book of this period stated, "A natural growth of the clitoris is likely to lead to immorality as well as to serious disease. Amputation may be necessary." Although many doctors frowned on the practice of removing the clitoris, they tended to agree that this might be unnecessary in cases of nymphomania. The last clitoroctomy we know of in the United States was performed 25 years ago on a child of 5 as a cure for masturbation. More widely practiced was the surgical removal of the ovaries, ovariotomy or female castration. Thousands of these operations were performed from 1860 to 1890. Traduzione da Complaints and Disorders, The Sexual Politics of Sickness, scritta da Barbara Ehrenreich ed Edgar English. Cure mediche alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX. Il dottor Hollick, parlando dei metodi per curare la menorrea, commentava: alcuni autori parlano in maniera molto ammirata del buon effetto delle sanguisughe, applicate direttamente sulle labbra esterne qualche giorno prima che le mestruazioni debbano arrivare. Sanguisughe sui seni potrebbero essere anche efficaci, osservava, grazie alla grande simpatia tra organi sessuali. In alcuni casi le sanguisughe erano anche applicate sulla cervice, nonostante il pericolo della loro perdita occasionale nell'utero. Per quanto ne sappiamo, nessun dottore ha mai considerato perpetrare simili insulti medici agli organi maschili. Questi metodi potrebbero essere considerati come guidati da buone intenzioni, per quanto morbose, o sperimentazioni in un'età di profonda ignoranza medica. Ma c'erano altre cure che erano ben più sinistre di queste, che avevano il particolare obiettivo di alterare il comportamento femminile. La meno distruttiva dal punto di vista fisico consisteva semplicemente in isolamento e riposo ininterrotto. Questa cura veniva spesso usata per curare una serie di problemi che venivano diagnosticati come disturbi nervosi. La passività era la principale prescrizione, insieme a bagni caldi, bagni freddi, astinenza da cibi animali e spezie, indulgenza in latte e budini, cereali e frutta subacida. Le donne dovevano avere un'infermiera che non fosse una loro parente, che si prendesse cura di loro, non dovevano ricevere visite. Come il dottor Dirks ha scritto, tutte le fonti di eccitazione mentale dovevano essere assolutamente vietate. Charlotte Perkins Gilman aveva ricevuto la prescrizione di tale trattamento dal dottor Vere Mitchell, che le aveva consigliato di mettere via tutte le sue penne e i suoi libri. Gilman ha poi descritto la sua esperienza nella storia The Yellow Wallpaper, la carta di parati gialla, nella quale l'eroina, che vuole diventare una scrittrice, alla quale viene imposto dal suo medico marito di riposarsi. Nel libro descrive: quindi prendo fosfati e fosfiti, qualunque cosa sia, tonici e passeggiate, aria, esercizio, e mi è assolutamente vietato lavorare finché non sto bene di nuovo. Personalmente non sono d'accordo con le loro idee. Personalmente credo che del lavoro a me congeniale, qualche forma di eccitazione, di cambiamento, mi farebbe stare bene. Ma cosa bisogna fare? Ho cercato di scrivere per un po', nonostante loro, ma mi provoca una grande stanchezza, soprattutto il fatto di doverlo nascondere, oppure di essere duramente opposta. Per questo. Pian piano Gilman inizia a perdere la testa. Dice che è difficile per lei pensare in maniera coerente e pensa che sia dovuto alla sua debolezza nervosa. E finalmente riesce a liberarsi da questa sua perdita di autonomia verso la follia. Comincia a strisciare, a gattonare in cerchi infiniti nella sua stanza, lamentandosi della carta di questa carta da parati gialla. Ma era il campo della chirurgia ginecologica che raccoglie gli esempi dei trattamenti medici più brutali, dei cosiddetti disturbi della personalità femminili. L'approccio chirurgico ai problemi psicologici femminili aveva trovato delle solide basi teoretiche nella teoria della psicologia delle ovaie. E, se infatti l'intera personalità di una donna era dominata, veniva considerato essere dominata dai suoi organi riproduttivi, allora la chirurgia ginecologica era l'approccio più logico a ogni problema psicologico femminile. All'inizio del 1860 i dottori iniziarono ad agire sulla base di questo principio. Almeno uno dei loro trattamenti era probabilmente efficace, ovvero la rimozione chirurgica del clitoride come una cura per l'eccitazione sessuale. Un libro medico del tempo diceva: una crescita innaturale del clitoride probabilmente condurrà a immoralità come a malattie gravi. L'amputazione potrebbe esserne necessaria. Nonostante molti dottori non fossero convinti di questa pratica di rimozione, generalmente erano d'accordo sul fatto che fosse necessaria in casi di cosiddetta ninfomania. L'ultima rimozione del clitoride di cui abbiamo conoscenza è stata compiuta 25 anni fa negli Stati Uniti su un bambino di 5 anni come una cura per la masturbazione. E ancora più vastamente praticata era la rimozione chirurgica delle ovaie, ovariectomia o castrazione femminile. Migliaia di queste operazioni furono agite dal 1860 al 1890. I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you agree that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. The table about to turn. The table about to turn. The table about to turn. Yeah. I've been flipping through my timeline, trying to get my mind right. My city cried out. I got to cool down, but I'm under pressure. Cooking with my Crisco. Look at what my fist go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda with a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And the table's about to, the table's about to. Back. Yeah, you laid an egg, now it's about to. decisions. Burning down plantations. Ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage. I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean. A different mission with a new dream. We kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. I said America, use a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. We gon' watch the table. Now we gon' watch the table. Dal piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e di genere di Non Una di Meno. Libere di decidere sui nostri corpi, per un pieno diritto alla salute. Consideriamo la salute come benessere psichico, fisico, sessuale e sociale e come espressione della libertà di autodeterminazione. La salute non è dunque rappresentata dalla semplice assenza di malattia e infermità. Nell'affrontare il tema della salute a partire da queste premesse, è per noi necessario rimettere al centro i corpi e i desideri, i bisogni e le condizioni materiali d'esistenza. Inoltre, vogliamo valorizzare il piacere come cardine della salute sessuale. La salute sessuale deve perciò essere slegata dalla sola dimensione riproduttiva e medica. In quest'ottica riconosciamo la violenza istituzionalizzata che agisce sui corpi e le soggettività considerate fuori dalla norma, tra virgolette, attraverso processi di patologizzazione e medicalizzazione forzata. Denunciamo pertanto la pratica della rettificazione neonatale dei genitali per le persone intersex come una violenza e ne esigiamo l'abolizione, anche in un'ottica di superamento del binarismo di genere. La rettificazione neonatale avviene tramite un processo di operazioni chirurgiche e di pratiche mediche farmacologiche messe in atto sui corpi di neonato e bambino intersex per modificare i loro organi genitali, interni ed esterni, e renderli conformi alla norma. Queste operazioni avvengono senza il consenso delle persone interessate e hanno conseguenze molto gravi per la loro salute sessuale e riproduttiva, oltre che psicologica. Altrettanto, le procedure e il trattamento dei percorsi di transizione devono essere ridefiniti fuori da ogni logica patologizzante. Non dovrebbe essere necessario, infatti, sottostare a una diagnosi psichiatrica di disforia di genere per poter accedere ai percorsi di transizione, né doversi sottoporre a operazioni chirurgiche genitali per modificare i propri documenti. Allo stesso tempo deve essere garantito l'accesso alle terapie ormonali, al sostegno e alle cure per le persone trans in maniera totalmente gratuita. Il diritto alla salute, anche sessuale e riproduttiva, deve essere garantito pure in carcere, in luoghi di internamento e in tutte le condizioni di autonomia limitata. Questo significa inoltre che vanno garantite condizioni di dignità e l'accesso alle cure ormonali alle persone transessuali, in ogni struttura limitativa della libertà personale. Rivendichiamo il benessere dei nostri corpi e l'autodeterminazione degli spazi che attraversiamo contro i concetti dominanti di sicurezza e decoro. È necessario cominciare a costruire un territorio in cui le donne e tutte le soggettività possano vivere a partire dai propri desideri e dalle proprie libertà. Riteniamo inoltre che l'accesso ai servizi sociosanitari debba avere carattere universalistico. In questo senso, crediamo che non sia più rimandabile un cambiamento dei servizi stessi per raggiungere una piena inclusione di tutte le soggettività e non solo quelle bianche, giovani, abili, eterosessuali e native. Vogliamo perciò un accesso incondizionato al diritto alla salute e al welfare. In particolare, si pone l'urgenza di svincolare l'accesso alla copertura sanitaria dall'obbligo di residenza per le e i migranti senza documenti e di superare il limite dei 3 mesi di presenza certificata sul territorio per accedere ai servizi sanitari. Pretendiamo che sia garantita la mediazione culturale e la traduzione in tutti i presidi sanitari, nei servizi sociali e nei rapporti con la pubblica amministrazione. Chiediamo l'introduzione in ogni presidio sanitario di figure di mediazione, che provengano da percorsi laici e femministi, volti al riconoscimento della violenza di genere nelle diverse forme in cui si manifesta. La mediazione deve avere il compito di contrastare ogni forma di infantilizzazione dell'utenza dei servizi assistenziali, dando spazio ai diversi modi in cui l'autodeterminazione prende forma e si realizza. Inoltre, la salute sessuale e riproduttiva deve essere garantita anche per gli e le sex workers, a cui devono essere forniti strumenti di informazione, di prevenzione e di cura che sappiamo tutelarne l'autodeterminazione e la libertà di scelta. Leggiamo il rapporto tra diritto alla salute e autodeterminazione nel quadro di un progressivo smantellamento del sistema del welfare, di aziendalizzazione, privatizzazione e precarizzazione della sanità pubblica. Mettere in luce la relazione tra condizioni di lavoro delle operatrici e degli operatori e il benessere delle persone che accedono ai servizi è un passo necessario per risignificare il rapporto tra i soggetti coinvolti. L'autodeterminazione si afferma attraverso la riappropriazione e la condivisione di saperi e risorse su cui si fondano il potere medico e la simmetria tra persone in cura e personale specializzato, con l'intento dunque di abbattere le barriere che dividono queste due figure. È necessario aprire terreni di conflitto sul sapere biomedico e sulle sue modalità di trasmissione alla luce dei saperi transfemministi, riconoscendo che ogni persona in cura è portatrice di un sapere, a partire da sé. A partire dal principio di autodeterminazione, contrastiamo il monopolio dei saperi e rompiamo l'asimmetria tra persone che erogano e persone che usufruiscono dei servizi sanitari. Molto più di 194. In Italia, su 94 ospedali con un reparto di ostetricia e ginecologia, solo 62 effettuano interruzioni volontarie di gravidanza, cioè solo il 65,5% del totale. L'obiezione di coscienza nel Servizio Sanitario Nazionale è illegittima perché lede il diritto all'autodeterminazione delle donne. Per questo vogliamo il pieno accesso a tutte le tecniche abortive, chirurgiche e farmacologiche per tutte le donne, native e migranti, che ne fanno richiesta. A partire dalla priorità dell'autodeterminazione delle donne, vogliamo promuovere la de-ospedalizzazione dell'aborto attraverso l'incremento della somministrazione delle pillole abortive. Devono essere modificati e armonizzati a livello nazionale i protocolli di somministrazione. Deve essere possibile accedere all'aborto farmacologico fino a 63 giorni, senza ospedalizzazione e attraverso una somministrazione che venga fatta anche dal personale ostetrico all'interno dei consultori. Rivendichiamo l'abolizione delle sanzioni amministrative per le donne che ricorrono ad aborto autoprocurato fuori dai termini di legge, perché costituiscono un deterrente al ricorso a cure mediche in caso di complicazioni, andando dunque a minare la salute e il benessere delle stesse. Il diritto all'autodeterminazione va garantito anche in caso di una scelta non riproduttiva e irreversibile, come ad esempio la chiusura delle tube o la vasectomia. Contro la violenza ostetrica. Negli ultimi 14 anni, circa 1 milione di donne italiane, il 21%, ha dichiarato di aver vissuto esperienze di violenza ostetrica durante il travaglio o il parto. Per violenza ostetrica si intende l'espropriazione del corpo e dei processi riproduttivi della donna da parte del sistema sanitario. Questa violenza si esprime in un trattamento disumano, nell'abuso di medicalizzazione e nella patologizzazione dei processi fisiologici. E mina l'autonomia e la capacità di decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità, impattando negativamente sulla qualità della vita delle donne. Esempi di violenza ostetrica sono la derisione che molte donne subiscono in sala parto, o il giudizio in caso di aborto, l'impostazione della posizione supina per partorire, il taglio del perineo anche se non necessario, l'induzione al parto senza consenso. Anche l'insistenza sul parto naturale, tra virgolette, senza epidurale, è da considerarsi una violenza ostetrica. La violenza ostetrica deve essere riconosciuta, anche a livello giuridico, come una delle forme di violenza contro le donne che riguarda la salute riproduttiva e sessuale. La libertà di scelta delle donne va garantita attraverso la promozione della cultura della fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio e dell'allattamento. Inoltre, i dati statistici su indicatori di violenza ostetrica vanno rilevati e pubblicati. Per garantire una piena autodeterminazione anche durante la gravidanza e il parto, vogliamo l'apertura di case di maternità, pubbliche e gestite dal personale ostetrico, nonché il rimborso per il parto in caso riconosciuto dal Sistema Sanitario Nazionale. Contro le logiche securitarie nei presidi sanitari. Per scongiurare la medicalizzazione e l'istituzionalizzazione degli interventi a favore delle donne che subiscono violenza, pretendiamo che nell'elaborazione di qualsiasi iniziativa di contrasto a quest'ultima vengano coinvolti attivamente i CAV laici e femministi. Riteniamo infatti inadeguati e dannosi interventi di stampo esclusivamente assistenziale, emergenziale e repressivo, che non tengono conto dell'analisi femminista della violenza come fenomeno strutturale. Per questo esprimiamo contrarietà al cosiddetto codice rosa, codice di accesso al pronto soccorso riservato alle donne che subiscono violenza, coordinato da procura, regione e azienda sanitaria. E ne chiediamo la totale riorganizzazione al di fuori delle logiche securitarie che impongono percorsi obbligati lesivi dell'autonomia e della libertà di scelta delle donne. Consultori e consultorie. I consultori vanno risignificati come spazi politici, culturali e sociali, oltre che come servizi sociosanitari, valorizzando la loro storia di luoghi delle donne per le donne. Questa ripoliticizzazione va agita attraverso forme di riappropriazione e autogestione del servizio che ne garantiscano l'apertura all'attraversamento di corpi differenti per età, cultura, provenienza, desideri e abilità e che promuovano il riconoscimento dei saperi transfemministi, prodotti e incarnati dai soggetti. Promuoviamo la riqualificazione dei consultori pubblici attraverso l'assunzione di personale stabile, con differenti competenze e professionalità, in numero tale da garantire la presenza di equip multidisciplinari complete in ciascun consultorio. Chiediamo il potenziamento e il rifinanziamento della rete nazionale dei consultori, nel rispetto del rapporto tra numero di consultori e numero di abitanti, sul territorio urbano ed extraurbano, e che sia garantita l'apertura dei consultori in diverse fasce orarie per permettere l'accesso a più persone possibili. I consultori pubblici devono assolvere al compito di garantire l'accesso alla contraccezione gratuita, all'informazione e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, garantendo test e screening gratuiti e inclusivi per tutte le soggettività, promuovendo una condivisione di saperi anche in relazione alle pratiche non riproduttive. Inoltre, i consultori devono garantire servizi per le donne in menopausa, che evitino di patologizzarle e non trascurino il piacere sessuale. A tal proposito, riteniamo fondamentale che i consultori tornino a svolgere corsi di educazione sessuale ed educazione all'affettività, scomparsi con la riforma Moratti, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per restituire attenzione al corpo sessuato e per contrastare la costruzione di rapporti di potere e discriminazioni eteronormate. Crediamo sia importante incoraggiare l'apertura di nuove e sempre più numerose consultorie femministe e transfemministe, intese come spazi di sperimentazione, autoinchiesta, mutualismo e ridefinizione del welfare, al fine di ripensare e ricostruire processi di circolarità tra nuove esperienze di autogestione e forme di riappropriazione dei servizi, luoghi in cui elaborare strategie di intervento collettivo rispetto all'autodeterminazione di tutto, alla violenza di genere e dei generi, alla salute e al piacere sessuale.